Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È una nuova settimana di Eclettica, quella che vi apprestate ad ascoltare. Benvenuti a tutti voi che la ascoltavate nelle settimane scorse, ma anche a coloro che grazie alle nuove frequenze di Rock FM sono arrivati da queste parti. Un benvenuto quindi corale in una settimana che avrà un giorno festivo nel mezzo, ma non ci fermerà. Anche quel giorno Eclettica sarà presente sulle frequenze di Rock FM. Ma in dove erano andate a finire quelle prime mattinate nelle quali, appena risbigliato, si sentiva attraversato da una specie di correnti di felicità pura, senza motivo? Non si trattava del fatto che la giornata si presentava priva di nuvole e vento e tutta tirata lucido dal sole, no. Era un'altra sensazione che non dipinniva dalla sonatura di meteoro opatico. A volersela spiegare era come un sentirsi in armonia con l'universo creato, perfettamente sincronizzato ad un grande orologio stillare ed esattamente allocato nello spazio, al punto preciso che gli era stato destinato fino dalla nascita. Minchiate? Fantasie? Possibile. Questo era l'incipit delle ali della Sfinge, di Andrea Camilleri. Leave the gun. Take the cannoli. Oggi abbiamo aperto con Windmill, quel progetto di cui settimana scorsa avevo già dichiarato anche in lista nera di essermi innamorato. Al momento voi avete la possibilità, a meno che non giriate su internet, di ascoltare solo un pezzo, visto che l'album sarà in uscita a maggio, Fit, quello che io ho inserito per il momento nelle playlist di Eclettica, ma avrete poi ulteriori elementi per capire questa mia affermazione e in qualche modo sottoscriverla oppure rifiutarla. Windmill si è aperta così Eclettica, poi abbiamo proseguito con le atmosfere che arrivano dalla città di Colonia grazie agli Urlaub in Polen, e invece si prosegue con un nome nuovo per quanto riguarda le playlist di Eclettica. Loro si chiamano Underground Railroad, fanno di base a Londra, ma però sono tutti e tre parigini. Dichiarano nelle influenze nomi come Velvet Underground, Radiohead, The Cure, Deerhoof, Nirvana, quindi nomi fra di loro che danno una serie di coordinate ben precise, però se li ascoltiamo, magari nel pezzo in questione, ce ne vengono in mente solo alcune di quelle che ho appena citato. We'll be right back. La nottata era proprio tinta. Botte di vento arraggiate si alternavano a rapide passate d'acqua, tanto malintenzionate che parevano volessero infilzare i tetti. Montalbano era tornato a casa da poco, stanco, perché il travaglio della giornata era stato duro e soprattutto faticante per la testa. Riaprì la porta finestra che dava sulla verandina. Il mare si era mangiato la spiaggia e quasi toccava la casa. No, non era proprio cosa. L'unica era farsi una doccia e andarsi a coricare con un libro. Sì, ma quale? A leggere il libro col quale avrebbe passato la notte, condividendo il letto e gli ultimi pensieri, era Macari capace di perderci un'orata. Questo era l'incipit degli Arancini di Montalbano, di Andrea Camilleri. Death may come invisible, or in a holy wall of fire, in the breath between the markers, on some black 80 mile, from the madness of the government to the vengeance of the sea. Well, everything is eclipsed by the shape of destiny. So love me now. Hell is coming. You kiss my mouth. Hell is here. Little soldier, little insect, you know war, it has no heart. It will kill you in the sunshine, or happily in the dark, where kindness is a card game, or bent up cigarette in the trenches in the hard rain, with a bullet and a bet. He says, help me out. Hell is coming. Could you do it now? Hell is here. See the sterile soil pours in the sky. Yellow water, final scraps of life. Bringing new tears. We'll be right back.

not really, but sort of. This got made in the place of a visit. Stole the whole song from your biggest band, the title track from the third record, but swapped the organ for bass, which kinda sounded more like the big boys anyways. Skate rock from Texas. But this is the single, and the single is spoke, the record is sung. The song is the single, and the single sucks. Da qualche settimana a questa parte avevamo dato spazio a sprazzi cinematografici in lingua italiana. Con questa siamo ritornati alla lingua inglese. È una grande saga familiare della storia del cinema americano che magari qualcuno tra voi ha già avuto modo di capire, di individuare, soprattutto grazie all'ultimo spezzone. Quello che aveva preceduto il brano dei Bar, band newyorkese che avete appena ascoltato, e che aveva seguito invece il brano dei Bright Eyes dal nuovo album, un bell'album in cui sono usati molto intelligentemente gli archi, come avete sentito, in cui c'è anche una forte presenza di voci femminili e in cui mi hanno particolarmente colpito anche i testi, compresi quelli del brano che vi ho trasmesso e che magari in un'altra occasione andrò in qualche modo o a leggervi o a commentarvi. E per chiudere questa prima parte di Eclettiche, io direi che è arrivato anche per quest'oggi il momento dell'Islanda. Og ég veit að hér